sono Federica Pellegrini e prima di ogni gara anch'io mi carico ascoltando la canzone del gatto Cabio. Sha-la-la-la. Sha-la-la-la. Sha-la-la-la. La. Il gatto di mio zio è un gatto da divano, finge di sbadigliare e intanto allunga la mano. Ma quando la parona arriva sui suoi tacchi, tira indietro le orecchie e strizza forte gli occhi. Gatto Cabio, che gatto geniale, che opportunista paracu paranormale. Come un piccione fa l'inchino ogni codina, saltando come un picchio dietro ogni canarina. Va ghiotto per il latte, ma solo di pecorina. Il gatto di mio zio, di nome fa Cabio, si crede un cucuculo e canta come un dio. Al posto di miau miau, invece fa più pio. Bravo gatto Cabio, bravo gatto Cabio. Sha-la-la-la. Sha-la-la-la. Il gatto di mio zio sembra una rapa dentro all'orto. Diresti da uno sguardo che non ha mai preso un sorcio. Ma quando la parona fa tintinnare il frigo, le struscia sui polpacci e si mette a farle il filo. Gatto Cabio, Latin lover da dispensa. Gatto Cabio non è un felino ma una lenza. È sociopatico più d'un pastore alpino, geloso della propria impronta sul cuscino. Direi che è più dinamica una papera di plastica. I grugniti son saluti e gli sbadigli son ginnastica. Il gatto di mio zio, di nome fa Cabio, si crede un cucuculo e canta come un dio. Al posto di miau miau, invece fa pio pio. Bravo gatto Cabio, bravo gatto Cabio.